2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 31 maggio 2014, benvenuti o bentornati a 2024, un saluto a tutti gli ascoltatori che per la prima volta ascoltano 2024 e naturalmente bentornati a tutti i nostri ascoltatori fedeli che ci ascoltano con costanza settimana dopo settimana. La nostra puntata naturalmente la trovate anche sul nostro sito internet www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo la nostra email 2024@radio24.it oppure anche utilizzando Facebook o Twitter. Cercate Enrico Pagliarini ed è molto semplice ritrovarci, o anche con il nome della trasmissione 2024. Tra poco parleremo di veicoli automatici, quindi di automobili, ma non solo di automobili, di veicoli, di mezzi che si muovono con capacità autonoma, che vedono, reagiscono, una prospettiva sempre più vicina. Parleremo anche di Google che questa settimana ha attivato un modulo online per coloro che ritengono opportuno cancellare alcuni link, ma non è semplice, non è una procedura automatica, ci sarà una valutazione e non tutte le richieste verranno accettate, ne parleremo tra poco. Prima alcuni numeri che arrivano dalla Commissione Europea, che questa settimana ha fatto il punto sull'adozione dell'agenda digitale in Europa. La Commissione dice che 95 dei 101 punti, dei 101 progetti dell'agenda digitale europea verranno raggiunti entro il 2015. Forse è un po' esagerato. Tuttavia questa è la considerazione della Commissione, che ricordiamo verrà rinnovata in autunno, quindi è anche un po' interesse della Commissione dire guardate che bravi che siamo stati, perché quasi tutti i progetti verranno raggiunti. C'erano una serie di obiettivi, raggiungere che ne so la copertura internet dell'Europa pari al tot per cento entro il 2015, obiettivo raggiunto, non raggiunto, poi dipende anche dai paesi, però naturalmente la Commissione Europea fa una media di tutti i 28 paesi dell'Unione Europea. Allora, per quanto riguarda l'Italia, la banda larga, ma stiamo parlando di banda larga di base, proprio quella di 2 megabit, raggiunge il 99% delle abitazioni, una percentuale che scende però all'88% se si considerano solo le zone rurali. Ma i problemi arrivano quando si sale, cioè velocità di almeno 30 megabit in download erano disponibili alla fine del 2013 per il 21% delle abitazioni, mentre in Europa la media è del 62%. Allora, gli stati che si avvicinano, pensate, al 100%, stiamo parlando di velocità di 30 megabit. Allora, 100% sono Malta, vabbè, facile, un paese molto piccolo, il Belgio, l'Olanda e la Lituania, stiamo parlando appunto di paesi molto molto piccoli. Se guardiamo a paesi più simili all'Italia per dimensioni, quindi per complessità di infrastruttura, allora qui la gara diventa più complessa. La Germania ha una percentuale del 75%, Gran Bretagna di poco superiore, la Francia del 41%, noi siamo al 21%. È vero che probabilmente alla fine di quest'anno questa percentuale crescerà di molto, perché bisognerà tener conto del progetto di Telecom Italia in modo particolare e di Fastweb di portare almeno nelle grandi città, prevalentemente nelle grandi città, la fibra ottica vicino alle abitazioni. Non stiamo parlando, come gli operatori tentano di far credere, di fibra ottica nelle case, quindi fiber to the home, ma fiber to the cabinet, cioè la fibra ottica viene portata agli armadi stradali e quindi si riduce la distanza che deve percorrere il doppino di rame, ma nelle case continua ad esserci il doppino di rame, quindi non vi fidate dei messaggi che lanciano Fastweb, che Fastweb sembra che sia tutta fibra, magari. E anche Telecom che dice è arrivata la fibra nel tal paese, è arrivata fino ai cabinet di strada, poi c'è sempre il rame che fa l'ultimo pezzo di strada, quindi si possono certamente raggiungere velocità di 30 megabit in download, di 50 megabit se si adottano una serie di tecnologie e in prospettiva anche di 100 megabit, però il problema è che fra qualche anno i 100 megabit non saranno più sufficienti e non lo saranno nemmeno rispetto ai parametri europei, quindi siamo da capo. continuiamo a dire e a ripetere che l'unica soluzione è una infrastruttura pubblica, un nuovo progetto di infrastrutturazione pubblica del nostro paese, un progetto tra l'altro sostenibile economicamente, perché poi su quelle reti si pagherebbero i canoni, gli operatori pagheranno i canoni, quindi un progetto, l'abbiamo raccontato almeno una volta recentemente, 2024, un progetto assolutamente economicamente sostenibile che potrebbe dare lavoro intanto a milioni di persone nella fase in questi anni per diffondere per tutti i lavori di infrastruttura, quindi di scavo e di posa della fibra ottica. E poi questa società pubblica, così come tutte le altre reti che sono pubbliche, darebbe connettività a parità di accesso a tutti gli operatori. Ne torneremo sicuramente a parlare, perché anche all'interno del governo c'è una discussione in atto proprio su questo tema. Allora, tornando ai dati della Commissione Europea, il 21% degli italiani ha interagito in modo digitale con la pubblica amministrazione nel 2013, mentre in questo caso la media europea è del 41%, perché l'agenda digitale non è solo portare fibra ottica e banda larga in giro per il paese, ma è anche far utilizzare internet. Anzi, questo è il capitolo più complesso e più difficile da un certo punto di vista. Allora, qui, come avete sentito, siamo ad una percentuale molto bassa, cioè ancora molta poca è la gente che interagisce in modo digitale con la pubblica amministrazione, risparmiando tempi di spostamento e anche tempo di fila all'ufficio, più tutto il resto, carta, eccetera, eccetera. Quindi usiamo meno internet, perché il dato non vale solo per la pubblica amministrazione, vale in generale secondo altri parametri della Commissione Europea, li potete andare a leggere, ci sono tantissimi, tantissimi numeri. Usiamo meno internet, e anche le aziende, soprattutto le medie e le piccole aziende, ma purtroppo siamo anche meno capaci di farlo rispetto alla media europea, cioè le capacità digitali dell'italiano medio sono piuttosto basse. Quindi non abbiamo le competenze base per usare in modo utile per la nostra vita di tutti i giorni internet. Un'altra notizia prima delle nostre digital news. Allora, l'altra notizia riguarda la Microsoft. Il nuovo amministratore delegato Satya Nadella ha mostrato il nuovo Skype Translator, cioè un servizio di traduzione in tempo quasi reale che Microsoft potrebbe lanciare entro fine anno su Windows 8. Sarebbero già 40 le lingue supportate e la traduzione avverrebbe alla fine di ogni frase pronunciata dalle persone che si stanno parlando su Skype. Io parlo in una lingua, dico una cosa, avviene la traduzione e l'altro dall'altra parte sente la traduzione e via di questo modo. Allora, sentite l'esempio che ha fatto sentire Microsoft di un dialogo tra un tedesco e una persona che parla in inglese. But I wanted to talk to you about the email that I sent you yesterday. Quindi fate attenzione, la persona parla in tedesco, la macchina traduce subito dopo la sua frase in inglese, la persona che sta dall'altra parte capisce, risponde in inglese, la macchina traduce in tedesco e via così, avanti, indietro, avanti, indietro. There was one thing though. Could you change the green to a lighter shade? Könnten Sie das Grün durch einen helleren Farbton ändern? Ja, wir können das Grün viel heller machen. Yes. We can make the green much brighter. Ich sende dir heute Abend eine neue Datei. I'm sending you a new file tonight. That sounds great. I look forward to it. Das klingt toll. Allora, esistono già molte altre aziende che lavorano sulla traduzione quasi simultanea audio. Google, ad esempio, ha un servizio disponibile sullo smartphone Nexus. NTT Docomo, cioè i giapponesi, ha un servizio fra giapponese e inglese, e ci sono anche molti apparati specializzati, cioè strumenti che fanno solo quello, solo la traduzione, ma naturalmente la prospettiva di avere questi servizi su smartphone o su sistemi come Skype cambierà drasticamente le cose. La particolarità di Skype Translator è la fluidità e il fatto che non è necessario alcun intervento durante la conversazione. Non è che devi dire, così come succede oggi, aspetta che sto parlando in inglese traduci nell'altra lingua e poi viceversa fai l'inverso, eccetera eccetera. In questo caso uno setta le due lingue e la traduzione, il dialogo avviene in modo molto naturale. È una prospettiva molto interessante. Va detto che oggi questi sistemi, le traduzioni in generale, magari alcuni di voi hanno anche provato a utilizzare questi sistemi, insomma le traduzioni in alcuni casi lasciano un pochettino a desiderare, ma siamo, potremmo dire, ai margini, e lo vediamo da molte spie, da molti indizi, siamo ai margini di un'era in cui non sarà più necessario imparare una lingua. Magari è più bello il dialogo tra due persone che parlano un'altra lingua, ma le macchine faranno molto, e questa è una delle tante cose che riusciranno a fare le macchine nei prossimi anni, e di questo abbiamo parlato in alcune puntate recenti di 2024, in cui abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di macchine automatiche, eccetera eccetera. A proposito di altre notizie della settimana, parliamo di Google, perché Google ha attivato un modulo questa settimana e sarebbero già più di 15.000 le persone in Europa che hanno utilizzato questo modulo elettronico e hanno chiesto a Google di rimuovere dai risultati di una ricerca su internet i link a notizie che li riguardano. Allora, questo accade perché Google da questo venerdì ha messo appunto a disposizione questo modulo online, perché si è adeguato ad una sentenza della Corte Europea di Giustizia sul cosiddetto diritto all'oblio. Ricorderete che i giudici del Lussemburgo, nella sentenza del 13 maggio, ne abbiamo parlato nella puntata appunto di quella settimana, avevano detto che un cittadino europeo ha diritto di essere dimenticato da un motore di ricerca se si verificano particolari condizioni. Facciamo un esempio: se il signor Marco Rossi fa una ricerca e trova un link ad un testo, ad una notizia, una fotografia, un altro contenuto che lo riguarda, e lui ritiene che non sia più opportuno che quel contenuto sia indicizzato dal motore di ricerca, potrebbe chiederne la rimozione. Allora, dicono però i giudici, attenzione, vanno cancellate solo le informazioni non adatte, irrilevanti o non più rilevanti, perché è passato molto tempo, e qui cominciano i problemi, perché chi decide se non sono adatte, se sono irrilevanti o non sono più rilevanti? Poi bisogna garantire un equilibrio fra il diritto alla privacy e a quello all'informazione. Quindi di sicuro non tutte le richieste verranno accolte. Sarà un lavoro molto lungo e molto complicato, perché queste 15.000, ma probabilmente sono già nelle ultime ore diventate 20.000 oppure ancora di più, dovranno essere valutate una ad una, e sarà Google che lo valuterà in base a questa sentenza. È una materia molto delicata, molto molto complessa, e quindi ci sarà anche un dibattito, sicuramente sarà interessante il dibattito nelle prossime settimane. Google stessa ha detto: faremo un comitato di esperti per decidere come reagire, come rispondere a questo tipo di richieste. Va poi ricordato, altra cosa molto importante, che la cancellazione riguarda solo i risultati della ricerca e non il sito sorgente. Le notizie rimangono online, ma sarà più difficile trovarle, quindi se una notizia esce su una determinata persona, su un quotidiano online, così come è stato il caso relativo alla sentenza della Corte Europea di Giustizia, la notizia rimane online sul sito, ma non viene indicizzata da Google, perché ne è stata chiesta la rimozione ed è stata accettata la richiesta. Quindi i giudici di fatto hanno detto che Google ha una responsabilità, poiché crea un'immagine online di una persona, ci sono tutti i risultati uno dietro fila. Tutt'altra cosa invece andare a cercare, con tutte le difficoltà del caso, le informazioni sui singoli siti. Argomento estremamente affascinante, anche per certi versi complesso. Adesso noi però ci fermiamo, tra poco ci sono le nostre Digital News e poi parleremo di veicoli automatici, una prospettiva sempre più vicina a una realtà che si sta avvicinando molto molto velocemente. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci risentiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. A proposito della rimozione, delle richieste di rimozione di un link da parte degli europei, che possono farlo grazie a questa sentenza della Corte Europea di Giustizia, allora vanno dette altre cose importanti. Allora, la prima è che appunto riguarda solo i cittadini europei e solo l'Europa, quindi la stessa ricerca, ammesso che una richiesta venga accettata, quindi un link che punta ad una notizia, facciamo un esempio, io trovo una notizia che mi riguarda di un caso giudiziario dal quale io sono uscito pulito, dopo 10 anni potrei chiedere la rimozione, perché dico non ha più senso che una persona cerca con il mio nome un caso ormai passato da cui io sono uscito in modo pulito, e quindi Google accetta questo tipo di rimozione. Benissimo, se uno fa la stessa ricerca negli Stati Uniti o in altro paese extra europeo, quella ricerca dà risultato perché il link non viene rimosso da lo stesso Google negli Stati Uniti, quindi si creeranno anche delle differenze da questo punto di vista. Poi un'altra domanda è: vale per i motori di ricerca che non hanno una sede stabile nei paesi europei, tipo Yandex, che è un motore di ricerca russo? A Yandex posso fare una richiesta di questo tipo? Molte cose le scopriremo nelle prossime settimane in base anche all'esperienza e alle decisioni che verranno prese. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana che condensiamo nelle nostre Digital News. Digital News. Abbiamo ancora qualche numero. Secondo AudiWeb, nel mese di aprile sono stati 27,5 milioni di italiani che hanno navigato su internet almeno una volta da un computer. L'audience online da PC nel giorno medio è stata più bassa, quindi quelli assidui sono solo 12,6 milioni di utenti. Da questi dati mancano però gli accessi da mobile, quindi da smartphone e da tablet, che crescono di mese in mese. Digital News. L'ultimo rapporto di Kantar World Panel Comtech, che è una società che descrive l'andamento delle vendite dei terminali mobili, tra le tante cose. Allora, l'ultimo rapporto relativo al primo trimestre dell'anno conferma l'Italia come il principale paese in Europa per i telefoni con sistema operativo Windows Phone, per gli smartphone con Windows Phone. Di fatto parliamo dei Nokia Lumia, anche se ci sono pure HTC, Samsung e Huawei che hanno smartphone con sistema operativo Windows Phone. Allora, questo sistema operativo ha una quota di mercato in Italia dell'11,8%, iOS al 13,4%, quindi Windows Phone tallona iOS, mentre Android è salito negli ultimi mesi al 72,5%. Digital News. Il problema delle disponibilità di applicazioni rimane il principale per Windows Phone, che con la versione 8.1 è diventato veramente un ottimo sistema operativo. Le applicazioni gradualmente vengono prodotte, anche se spesso si parte da iOS e da Android. Tra le ultime applicazioni arrivate ce n'è una molto famosa soprattutto tra i giovani, ed effettivamente Windows Phone è piuttosto utilizzato dai giovani perché ci sono degli ottimi telefoni a prezzi decisamente competitivi. Allora, dicevo, una delle ultime applicazioni è Telegram, che è uno dei principali concorrenti di WhatsApp. Digital News. Parliamo di Apple, che ha confermato di avere acquisito Beats nelle due divisioni dopo tante indiscrezioni. Allora, le due divisioni sono Music, che ha un servizio di streaming musicale attivo da inizio anno negli Stati Uniti, e poi c'è Beats Electronics, che è famosa soprattutto per le cuffie audio. Valore dell'operazione 3 miliardi di dollari. Digital News. Chi ha un televisore 4K, cioè pochi, con sintonizzatore DVB-S2, quindi sintonizzatore satellitare, e un decoder HEVC, quindi pochissimi, allora è anche una parabola, però ci sono alcuni che lo hanno, può provare la prima trasmissione sperimentale aperta al pubblico in 4K. Praticamente l'unica probabilmente in Italia, l'ha lanciata Eutelsat per il momento con pochi contenuti, però se uno vuole provare l'ebbrezza di un contenuto 4K, allora naturalmente Eutelsat si sta dando da fare molto sul 4K, perché la concorrenza di internet anche per la diffusione di segnale video è sempre più forte e veloce, e vedrete nei prossimi anni quello che succederà. Digital News. Intel sta guardando al promettente mercato dell'automobile, visto che in altri ambiti, tipo quello degli smartphone, finora non gli è andata molto bene. sta guardando a questo promettente mercato. Abbiamo detto in una recente puntata di 2024 che l'80% dell'innovazione nel settore dell'automobile arriverà dall'elettronica di bordo. Ed è per questo motivo che Intel ha presentato e lanciato una piattaforma sia hardware che software basata su Linux e sul processore Atom, che le case automobilistiche potranno utilizzare per costruire i sistemi di infotronica di bordo, una roba chiave in mano per costruire appunto un'esperienza di bordo. Bene, queste erano le nostre digital news della settimana. Adesso parliamo di veicoli autonomi. Google, citiamo di nuovo Google, ha annunciato proprio questa settimana l'avvio di un progetto per costruire un'auto a guida autonoma da zero. Allora, mentre finora il veicolo usato per i test in California, un test di guida automatica, era una Toyota Prius, probabilmente l'avrete vista, ora Google dice: vogliamo costruire un centinaio di prototipi da zero. Ho fatto vedere alcune fotografie, un'auto piuttosto buffa. Si tratta di una sorta di scatolona con solo due posti e nient'altro, non c'è il volante, non ci sono i pedali perché è automatica, quindi non servono a nulla. L'intenzione è quella di cominciare a sperimentare i primi prototipi già questa estate e avviare un programma pilota in California nell'arco dei prossimi 2 anni. Ma sono tantissime le aziende, i centri di ricerca in tutto il mondo che stanno sperimentando e hanno già fatto veicoli automatici, cioè hanno già dimostrato tecnologicamente che le, io dico automobili per semplicità, ma parliamo di veicoli in generale, camion, autobus, trattori, eccetera, eccetera, possono guidare e muoversi addirittura anche nel traffico cittadino in maniera autonoma. E parliamo di questo affascinante argomento con il professor Alberto Broggi, che è il direttore del VisLab. Benvenuto, o meglio, bentornato a 2024. Grazie mille. Il VisLab è il laboratorio di visione nato all'interno dell'Università di Parma, che oggi invece è uno spin-off, è un'azienda. Sì, è uno spin-off. Abbiamo fatto questo spin-off nel 2009 e ormai sono 5 anni. E stiamo cercando di trasferire tutto quello che abbiamo sviluppato all'università nel mondo industriale. Allora, voi costruite veicoli automatici, è corretto dire così? Sì, diciamo che automatizziamo i veicoli. Più che parliamo costruire. Di automobili? Automobili, beh, ma non solo automobili. Abbiamo lavorato anche su altri tipi di veicoli, che sono veicoli da miniera, veicoli agricoli, insomma veicoli per costruzione. Insomma, tutto quello che si muove cerchiamo di automatizzarlo. E fate questo da 20 anni? Sì. Sono 20 anni che siamo all'interno di questo gruppo e ultimamente, come dicevo, abbiamo fatto partire lo spin-off e cerchiamo di portare quello che abbiamo realizzato verso l'azienda. Sì. Voi avete realizzato l'ultimo esperimento sul campo lo scorso anno, vero? Lo scorso anno, sì, siamo andati dall'Università di Parma, nel campus universitario, fino al centro città e in modo automatico, quindi senza nessun intervento umano. Cioè un'automobile che è partita da sola. Da sola, esatto. Beh, c'eravamo su noi per... Però non avete fatto niente. Non abbiamo fatto niente. Il veicolo è stato in grado di andare sulla tangenziale di Parma, girato nella zona pedonale, insomma tutto. Possiamo dire, allora, il professor Broggi è sincero e quindi ci dice la verità sullo stato dell'arte. Possiamo dire che il vostro veicolo è al pari di tutti gli altri veicoli automatici che stanno girando per le strade di tutto il mondo? Allora, noi sappiamo che praticamente quasi tutte le case automobilistiche hanno costruito o un prototipo, poi dipende dai casi, comunque veicoli automatici. Quello di cui si parla spesso è Google, ma è solo uno dei tanti. Infatti io spesso anche alle conferenze non capisco perché si parla della Google Car. Non è l'unica, è una delle, quante sono? 10, 20? Ah sì, saranno una dozzina sicuramente. Di diverse entità, case automobilistiche, eccetera. Generalmente sono case automobilistiche, sì. Okay. Case automobilistiche e Google. È una dei tanti. Allora, possiamo dire che il vostro è, io l'ho visto effettivamente, diciamo da profano mi sembra di capire che reagisca in modo autonomo come gli altri. È come gli altri? Sì, è assolutamente come gli altri, se non che noi abbiamo cercato di provare a fare esperimenti un po' più estremi. E, ad esempio, l'esperimento che abbiamo fatto l'anno scorso, di cui parlavamo prima, è un esperimento unico, perché una parte di questo percorso è stata gestita dal veicolo senza addirittura nessuno dietro al volante. Quindi non c'era nessuno seduto e il veicolo si muoveva assolutamente da solo. È stata la prima volta al mondo questa. Quindi cerchiamo di spingerci un po' oltre quello che fanno gli altri. Allora, definiamo quello che oggi un veicolo automatico, un'automobile a guida autonoma, può fare. Quindi in generale, oltre al vostro, ma in generale tutti i veicoli che ci sono disponibili, che cosa riesce a fare? Ma diciamo, bisogna definire cosa vuol dire autonomia, perché ci sono diversi livelli di autonomia. Sì. E potremmo parlare di autonomia in ambiti molto semplici, come ad esempio autostradale, e ormai la tecnologia ce l'abbiamo, anche sui veicoli che si possono acquistare dal concessionario oggi abbiamo la tecnologia. Oppure autonomia, cioè, in ambito avremmo urbano. Diciamo potenzialmente, non stiamo dicendo che esistono dei veicoli che vanno da soli in autostrada. Avremmo potenzialmente, chiaro. Okay. Basta solamente pensare ai veicoli che riescono a mantenere la corsia e stare a debita distanza al veicolo di fronte. Questo è già un livello di autonomia che è già sul mercato. È già sul mercato, certo. Sì. Oppure, dicevo prima, l'autonomia a livello urbano. Però a livello urbano è molto più complesso, perché l'ambiente è più difficile. Bisogna percepire l'ambiente in modo molto più preciso e quindi, come dicevo, è più difficile, ci arriverà più avanti. Sì, ma già oggi questo tipo di veicoli cosa fa? Perché se noi descriviamo il percorso che voi avete fatto lo scorso anno o con i veicoli che avete sperimentato negli anni passati, effettivamente uno un po' si stupisce. Sì, sì, beh, posso fare l'esempio di quello che è successo l'anno scorso. Siamo partiti dal campus e il veicolo è entrato in tangenziale, e quindi ha fatto una prima manovra per l'ingresso in tangenziale, che significa aspettare che ci sia un percorso sufficientemente lungo per potersi inserire in corsia, e poi ha girato tutta la tangenziale, ha fatto un mezzo giro di Parma e poi è entrato nella zona cittadina, urbana, con rotonde, passaggi pedonali, e un semaforo, un tunnel, e ha gestito tutto in modo automatico, quindi è riuscito a capire che c'erano dei pedoni sul passaggio pedonale, che c'era un veicolo di fronte. Cioè, quando passava il pedone si fermava. Certo. Che cosa non è in grado di fare ancora oggi? Ci sono alcune manovre che non siamo capaci di fare. Ad esempio, quindi anche assolutamente. Le automobili automatiche della Mercedes, della BMW, della Google, eccetera. Assolutamente, sì. Posso fare alcuni esempi che abbiamo provato noi sulla nostra pelle. Ad esempio, gestire rotonde molto grandi, di dimensione grande, cioè con due o più corsie. Queste sono ancora molto difficili da gestire perché... E la rotonda è innanzitutto un ambiente molto difficile anche per una persona umana. Esatto. È vero. E bisogna riuscire a capire se i veicoli che sono sulla rotonda usciranno oppure rimarranno in rotonda, e quindi dobbiamo dare la precedenza. E bisogna in qualche modo percepire dai piccoli movimenti dei veicoli che cosa stanno per fare. Quindi la rotonda lo manda un po' in tilt. Assolutamente. Altre cose che non è in grado di fare ancora? Beh, sono ad esempio l'immissione su una strada ad alta velocità dove non abbiamo una corsia di immissione sufficientemente lunga. E tipicamente quello che facciamo noi è che noi andiamo veloci e diamo uno sguardo velocissimo per vedere se qualcuno sta arrivando. Se qualcuno sta arrivando, di solito si inchioda, ci si ferma, sì, e poi si riparte. E questo ancora non è in grado di farlo, perché con un solo sguardo non riesce ancora a percepire quant'è la velocità del veicolo sta sopraggiungendo, se ce ne sono altre. Quindi è una situazione abbastanza complessa. Sì, se la segnaletica orizzontale, quindi le strisce, sono disegnate male, anche lì in qualche caso. Sì, noi ci basiamo molto sulle strisce, certo. Uh-huh. Sì. E quali sono i tasselli fondamentali, parlando di tecnologia, che rendono possibile tutto ciò? Poi parliamo delle evoluzioni future, delle leggi, dei regolamenti, delle responsabilità, delle assicurazioni, certo, perché è una cosa piuttosto complicata. Diciamo, tecnologicamente parlando, visto che è un'automobile piena di sensori, a partire da videocamere, ma cos'altro c'è? Insomma, cosa c'è? Sì, tecnologicamente parlando, di solito si divide il veicolo automatico in tre parti. Una prima parte è la percezione, cioè dobbiamo capire cosa abbiamo intorno. E qui ci sono sensori di diverso tipo installati un po' dappertutto sul veicolo. Seconda parte è decisioni, cioè una volta che io ho percepito cosa ho intorno, devo decidere cosa fare, e accelerare, frenare, sterzare, cambiare corsia. Questa è la parte decisionale. E poi l'ultima parte è l'attuazione, cioè una volta che ho deciso che devo frenare, allora devo mettere in campo tutto quello che serve per frenare, quindi agire sul pedale, oppure agire addirittura sulla centralina, sullo sterzo. E sono sostanzialmente tre livelli, molto semplici da capire, molto difficili da gestire. Ma quando parliamo di sensori, Facciamo alcuni esempi di che cosa sensori, c'è su questo autoveicolo. Sì, sensori di solito sono radar, laser o telecamere. Ci sono anche sensori ultrasonici, ma questi sono solo per i parcheggi, insomma non si utilizzano molto. Però normalmente si utilizzano laser perché hanno una elevata penetrazione, riescono ad arrivare fino addirittura a 200 metri di distanza e con una precisione elevatissima. A qualche centimetro, riescono a misurare distanze di 200 metri con qualche centimetro di errore. Quindi meglio dell'uomo. Assolutamente, assolutamente. E radar hanno invece questa peculiarità fenomenale per cui funzionano benissimo anche nel tempo, in brutto tempo, quindi quando c'è pioggia, quando c'è nebbia, questi riescono addirittura a vedere in mezzo alla nebbia. E poi telecamere. Anche perché... qui meglio dell'uomo. Devo dire proprio di sì. E telecamere, telecamere danno una possibilità infinita di riuscire a capire cosa c'è nella scena e capire l'andamento degli altri veicoli, chi sono gli altri veicoli, la presenza di pedoni, cioè classificare gli oggetti. E dopodiché tutti questi dati, adesso naturalmente noi la stiamo facendo semplice, è una cosa piuttosto complessa perché ci sono voluti quanti anni, diciamo dai primi momenti in cui si è cominciato ad abbozzare l'idea ad oggi, quanti anni sono passati? Beh, tantissimo, perché la prima volta che se ne parlava era negli anni 70, veicolo automatico. Insomma, una cosa piuttosto complicata. Sì. Quindi diciamo, lasciamo stare tutta la complicazione che c'è dietro, gli algoritmi, cioè, dopodiché ci sono dei computer di bordo. Ci sono dei computer, esatto. Sono dei calcolatori di bordo, alcuni sono collegati direttamente ai sensori per elaborare i dati che arrivano dai sensori. E poi quando i dati sono elaborati, ad esempio ho capito che di fronte ho un veicolo, c'è un pedone, c'è una bicicletta, cioè una volta che ho capito come è fatto l'ambiente circostante, noi abbiamo ad esempio un altro calcolatore che legge questo database, cioè di cosa ho intorno, e poi prende decisioni. Cioè sulla base della situazione decide che è giusto frenare. Se deve frenare, accelerare, eccetera, eccetera. Ma questo vuol dire che l'automobile, specifichiamo, la vostra... quella che avete usato per l'esperimento è un'automobile vera e propria, cioè di quelle che avete comprato in concessionaria. Assolutamente, normalissima. Ma è piena di computer? Beh, direi che sì, effettivamente abbiamo quattro calcolatori che non sono tantissimi, effettivamente. Cioè, quindi non è che dovete riempire tutta l'automobile. Cioè, No, assolutamente, questa è una cosa su cui stiamo molto attenti, perché tutta la sensoristica e tutti i sottosistemi devono essere assolutamente nascosti, non si devono vedere. La tecnologia ci deve essere, ma deve essere invisibile. Sì, esatto, questo è un punto interessante perché effettivamente ci sono alcune auto automatiche che si vedono alle fiere di case automobilistiche internazionali che hanno dei sensori piuttosto ingombranti. Uno dice vabbè, ho capito, però non è che potete mettermi un parabolone là sopra il tetto. Prima la Google Car, infatti, Google Car ha questo laser dalle prestazioni fenomenali che sta sopra il tetto, che però appunto è ingombrante, brutto, è molto ingombrante. Sì. Invece voi siete riusciti a nascondere tutto nel noi profilo dell'autoveicolo. Noi abbiamo nascosto tutto, effettivamente anche il nuovo prototipo che abbiamo sviluppato ha una ventina di telecamere dappertutto nascoste, però non si vedono, sono piccole, miniaturizzate e nascoste un po' dappertutto, quindi il look del veicolo è esattamente il look normale, cioè il veicolo non assomiglia assolutamente a un veicolo strano. A proposito di tecnologia, quanto tempo ci divide da avere un veicolo automatico affidabile che fa anche le rotonde in autonomia? No, ma direi che siamo abbastanza vicini. C'è tantissimo, non ci vuole ancora tanto. La tecnologia c'è. Ad esempio, per movimentare un veicolo in autostrada, abbiamo già tutta la tecnologia e saremmo già in grado di farlo. Ma non solo noi, insomma, tutte le case automobilistiche ormai hanno questa tecnologia, è già disponibile, è pronta. E le rotonde è un qualche cosa di un pochino più estremo. Quindi e legato possiamo, potremmo anche, diciamo, domani decidere di utilizzare veicoli partendo dalle autostrade e poi dire, vabbè, per le rotonde ci penseremo. Insomma, assolutamente. Che cosa, quindi a questo punto il problema, mi sembra di capire, che non è tecnologico. Il problema è parzialmente tecnologico perché chiaramente vanno ancora testati questi veicoli. Adesso la tecnologia c'è, però bisogna percorrere un certo numero di chilometri. Qualcuno diceva un'unità astrale, che è un certo misura di distanza molto alta. Per renderlo affidabile. Esatto, per capire quanto effettivamente è affidabile un sistema del genere. Però la tecnologia c'è, va testata in tante situazioni e poi siamo pronti. A proposito di affidabilità, visto che ogni tanto un ascoltatore, non sempre lo stesso, ci sono ascoltatori che scrivono e dicono però affidare troppe cose alla tecnologia è un po' pericoloso. Allora, già oggi diciamo che un'automobile, oppure se pensiamo agli aeroplani, se la nostra preoccupazione è quella, non dovremmo né prendere l'aeroplano, il treno, perché molte cose sono... E effettivamente invece si scopre che affidando tutto alla tecnologia il grado generale di affidabilità aumenta. Stessa cosa per questo? Assolutamente sì, perché un giorno, non in questo istante, ma tra qualche anno, saranno testati e quindi la tecnologia sarà sicuramente migliore di quanto può gestire una persona. A questo punto quindi, se con la tecnologia sostanzialmente siamo quasi arrivati al traguardo, che cosa manca? Beh, ci sono aspetti legislativi che bisogna gestire, bisogna molto capire, importante. Assolutamente importantissimi. Cioè, sicuramente l'obiettivo è avere zero incidenti, ma non ci si raggiungerà zero incidenti, perché l'incidente può anche succedere non per colpa del veicolo automatico, ma per colpa di qualcun altro. E il veicolo automatico, nel momento in cui si trova di fronte a una situazione imprevista, deve prendere una decisione. Ecco, in questo caso bisogna capire come gestirlo e come legiferare per questo. Sta pensando, immagino. Ci sono in tanti che ci stanno pensando, ad esempio noi no, perché noi siamo tecnologi e noi lavoriamo sulla tecnica e le tecnologie, però alcuni ci stanno lavorando, soprattutto a Stanford, c'è un gruppo molto forte che sta lavorando... Negli Stati Uniti, Stati Uniti, sì. E sulla definizione di quelle potrebbero essere le regole per permettere a un veicolo senza guida umana, o comunque anche soltanto supervisionato, di guidare in modo automatico. Immagino che il prossimo step, cioè diciamo le prossime generazioni di automobili, saranno fortemente piene di tecnologie che aiutano alla guida, cioè la responsabilità rimane sempre del pilota, quindi non bisogna sostanzialmente cambiare le leggi, ma avrai una serie di... Già oggi ci sono molte tecnologie che ti aiutano. Sì, sì. È questo lo step o no? Sì, direi di sì, però attenzione, quando si dà la possibilità al veicolo di guidare in modo automatico per lungo periodo, è vero che c'è la persona che dovrebbe essere alla guida, che può supervisionarlo, però è un attimo che questa persona si dedichi a fare qualche altra attività e quindi si perde il controllo. Quindi è vero che che la persona è lì seduta, pronta, però è molto probabile che questo si dedichi a un'altra cosa. Quindi questo approccio non è tutto sommato molto corretto. Bisogna comunque avere la possibilità di definire che il veicolo effettivamente può guidare in modo automatico, senza supervisione. Adesso faccio una domanda che ammetto proprio da giornalista puro, che dice: però ma quando ci saranno questi veicoli automatici? Dicevo, non tra tanto. Tra 10 anni? Ma molto prima. Ci saranno quindi anche le leggi? Secondo me sì, perché soprattutto negli Stati Uniti stanno spingendo tantissimo per arrivare a una legislazione. Adesso proprio 2 o 3 giorni fa è uscita la legge in California per testare veicoli automatici. Spiega tutte le procedure e cosa bisogna fare per avere la possibilità di testare sulla strada aperta al traffico dei veicoli automatici. Sì, negli Stati Uniti ci sono 3 o 4 stati, adesso non so di preciso quanti, che già da tempo permettono di fare test in strada. E gli Stati Uniti quindi stanno legiferando. E un altro paese che penso andrà molto veloce, anche se adesso è ancora un po' indietro, è la Cina. La Cina ha fatto dei passi gigante, e soprattutto per le infrastrutture nuove che stanno realizzando e per la legislazione, che diciamo che è molto fluida, e penso che quello sarà un altro paese in cui si testeranno i veicoli automatici per primi. Sì. Qual è la motivazione principale per cui si stanno da tempo pensando e già oggi costruendo, testando veicoli automatici? Ma la prima motivazione è motivazione sociale, cioè la diminuzione degli incidenti. Se riuscissimo, sono 93% gli incidenti dovuti a cause umane. Quindi praticamente è sempre l'uomo che è alla guida, che non è in grado di guidare, si distrae, guida sotto l'influenza di sostanze, e quindi il primo motivo è quello. In tutti i settori, io sono un appassionato di aeroplani, e guardo spesso documentari che raccontano degli incidenti degli aeroplani, praticamente sempre alla fine colpa dell'uomo. Sì. Siamo noi che infatti questo, se noi riuscissimo a eliminare l'uomo dal ciclo, a questo punto esageriamo. Il veicolo non avrebbe più incidenti. Sì. Sandro Fortunati, che è il nostro capo dell'area tecnica Radio 24, quando parliamo di alcune cose che magari succedono, dice sempre: le macchine non sbagliano, e infatti alla fine poi scopriamo sempre che siamo stati noi a sbagliare. Quindi la prima motivazione è... quella. Sì. Poi ci sono tante altre motivazioni, perché ad esempio avere un veicolo automatico che parla con una centrale operativa, ad esempio, può essere in grado di modulare la velocità, scegliere la strada migliore, andare magari molto vicino agli altri veicoli, quindi avere... riuscire a, a beneficiare della, di quello che si chiama aerodynamical drift, cioè la, la quando una ci bella si muove coda insieme, di macchine in autostrada che risparmiano un treno, treno di macchine. E poi direi ancora molto importante la possibilità di estendere la mobilità a tutti, quindi non solo le persone con la patente, ma anche persone che magari sono anziani oppure giovani che non hanno ancora la patente, e quindi tutti possono prendere un taxi senza taxista, ad esempio. Non proseguiamo su questo tema, che quindi possiamo immaginare che ne so, noi prima abbiamo avuto qualche problema di parcheggio con i veicoli automatici, fine del problema dei parcheggi. Assolutamente, io digiterò la mia destinazione, il veicolo mi porta a destinazione, scendo e il veicolo poi si va a parcheggiare da solo, oppure magari anche fuori città. Oppure poi è disponibile per qualcun altro, perché la mobilità del futuro è sicuramente mobilità condivisa. Non ci saranno più i veicoli di proprietà, ci saranno veicoli condivisi tra più persone, quindi quando mi serve prendere un veicolo grande o piccolo, sceglierò, mi porterà a destinazione e poi sarà condiviso. Quindi l'efficienza del veicolo sarà sempre altissima, non ci saranno veicoli parcheggiati lungo le strade, insomma è un ambiente completamente nuovo, è una nuova tecnologia che aprirà tantissimo, e dicevo non solo in questo campo. Quindi non siamo lontanissimi. Non siamo lontanissimi. Non siamo lontanissimi. Si inizierà, cioè queste cose le cominceremo a vedere in mezzo al traffico normale o si deciderà che, ne so, nel quartiere tal dei tali è tutto automatico? Ma secondo me ci vuole un aiuto da parte dei governi che in qualche modo specifichino che, visto che sono veicoli che saranno costosi all'inizio, devono avere un qualche beneficio. Gli utenti di questi veicoli devono avere benefici. Ad esempio potrebbe essere che lungo l'autostrada una sola corsia sarà a disposizione dei veicoli automatici, che potranno andare più veloci, che potranno andare molto più vicini tra di loro. Quindi ci sarà un vantaggio nell'avere il veicolo automatico, nel possedere il veicolo automatico. E poi la cosa poi si estenderà, perché da una sola corsia magari poi si passerà a due, magari a tre, e quindi quell'autostrada da un certo punto in poi sarà utilizzabile soltanto da veicoli automatici. E poi si estenderà anche al quartiere. Quindi l'esperienza di cambiare dando gas rimarrà una cosa relegata a qualche appassionato che andrà in pista, e poi nel futuro ci saranno generazioni che questa cosa non l'avranno nemmeno mai vista, e quindi non ne sentiranno nemmeno più. Io sto già pensando che col cambio automatico a volte si provano alcune ebbrezze magari nelle curve di montagna, tutte cose che non ci saranno più. Tutto questo mondo richiede che non solo il veicolo, immagino, sia tecnologicamente avanzato, automatizzato, eccetera, ma che ci sia attorno un'infrastruttura che dialoga col veicolo, che i veicoli si parlino tra di loro. Ecco, questo aspetto come sarà? Effettivamente sì, questa è un'altra pedina di tutto il grande disegno della mobilità futura, perché il veicolo automatico, il veicolo intelligente da solo può risolvere certe situazioni, ma non può risolvere tutto. Quindi è chiaro che dovranno essere tanti veicoli intelligenti che si parlano tra di loro, quindi comunicazione tra veicolo e veicolo, e poi comunicazione tra il veicolo e l'infrastruttura, che dovrà essere intelligente anch'essa. Ad esempio il semaforo potrebbe essere che non ha solo una lampadina ma anche una trasmittente, quindi mi trasmette lo stato del semaforo, quindi io già da lontano riesco a sapere quant'è il tempo che mi manca per il verde o per il rosso, e quindi modificare la velocità. Quindi tutta la situazione deve essere connessa e collegata. E da questo punto di vista si stanno facendo passi in avanti, così, perché mi sembra molto, che tutto il settore dell'automotive, come si dice in gergo, stia andando molto forte nello sviluppo di veicoli automatici. Ecco, non so cosa sta succedendo, certo è meno sexy tutto il resto, perché è più bello vedere un veicolo automatico. Sì, in effetti qualcuno sta lavorando sulle infrastrutture intelligenti. Il problema grosso è che l'infrastruttura intelligente è qualche cosa pubblica, quindi deve essere lo Stato che gestisce questa cosa. E invece il veicolo sarà ancora per un po' un veicolo di proprietà, quindi probabilmente è un qualche cosa più semplice, dedicato alle persone, all'acquirente. Quindi è un po' come, fatte le dovute proporzioni e i distinguo, è un po' come gli smartphone e la rete internet. La rete internet è un po' più lenta, esatto, perché richiede intervento pubblico. Cioè, se no, sono proprio due livelli diversi, due modi di procedere diverso. L'automobilismo, diciamo, la casa automobilistica si rivolge all'acquirente e l'infrastruttura si rivolge al cittadino, è una cosa diversa. Sì, no, chiarissimo, chiarissimo. Uno, guardando il mercato, dice le case automobilistiche stanno sviluppando veicoli automatici e non mi stupisco, perché è un'evoluzione di quello che stanno facendo. Già il fatto che Google stia sperimentando un veicolo automatico mi crea un po' di domande, perché dico, ma per quale motivo? Ma voi perché lo fate? Vabbè, diciamo, proseguite un percorso di studio all'interno dell'università, ma visto che siete diventati un'azienda a questo punto... Sì, stiamo cercando di, come dicevo prima, di trasferire quello che abbiamo fatto all'interno del mondo industriale, e stiamo appunto cercando di portare un prodotto che stiamo sviluppando all'interno di case automobilistiche e supplier dell'automotive, cioè le aziende che lavorano per le case automobilistiche. E i prodotti che abbiamo sviluppato finora sono sistemi di percezione, cioè con delle telecamere cerco di capire che cosa ho di fronte, e classificare gli oggetti, vedere la loro distanza, e stimare la loro velocità, e capire ad esempio che di fronte il terreno è piatto oppure in salita oppure in discesa, insomma tutto quello che sta intorno al veicolo. Se io fossi una casa automobilistica, diciamo, se io possedessi una casa automobilistica, potrei venire domattina da voi e facciamo il veicolo automatico? Cioè, noi, tutto pronto? Sì, sì, non domani mattina, stiamo lavorando con un po' di tempo, un certo numero di case automobilistiche, un po' di tutto il pianeta. E diciamo, le più interessanti penso che siano i giapponesi, e con cui abbiamo relazioni abbastanza strette, poi non solo i giapponesi, un po' dappertutto. Il tema del veicolo autonomo è un tema caldissimo adesso, assolutamente, dall'agosto dell'anno scorso, quando Nissan ha fatto questo statement fantastico, perché nel 2020 esatto, ci saranno veicoli automatici, tutti stanno correndo a gestire, improvvisare o inventarsi il veicolo automatico. Ci sono molti finanziamenti nel settore? Dunque l'Europa sta investendo abbastanza nel settore della green mobility oppure intelligent mobility. Sì. Anche negli Stati Uniti ci sono investimenti abbastanza significativi. E poi ci sono adesso appunto le case automobilistiche e anche qualcun altro tipo Google, che ha un business model un po' strano. Cosa se ne fa Google dell'automobile automatica? Ma diciamo che qualcuno l'ha paragonato a quello che ha fatto quando ha sviluppato il motore di ricerca. Il motore di ricerca è qualcosa che se ne va in giro, guarda i siti web e poi quando io gli faccio una domanda questo mi risponde, perché ha già controllato tutte le informazioni che sono intorno. Sì. Invece con la macchina automatica, in sostanza, lui andrà a mappare il mondo, e quando chiederò dalla mia macchina, chiederò ad esempio di raggiungere una tale destinazione, lui mi fornirà tutti i dati per poter raggiungere quella destinazione. Quindi mi darà una mappa molto aggiornata di tutta la strada e il percorso che dovrò fare. Questo potrebbe essere un business model molto forte, perché hanno ad esempio già dimostrato che sono in grado di mappare tutto il mondo. Certo. E il loro veicolo ad esempio è basato sulle mappe, è una cosa molto diversa dal nostro, cioè stiamo andando nella stessa direzione del veicolo automatico ma con tecnologie diverse. Il loro veicolo è basato su mappe molto dettagliate, e quando ci si muove il veicolo si localizza all'interno di questa mappa molto dettagliata, e quindi diciamo è più semplice muoversi perché abbiamo già una mappa a disposizione. Sì, sì. Il problema è che è un big data, questo è tremendo, bisogna mappare davvero tutto il mondo con precisioni elevatissime, e anche non solo mapparlo ma anche mantenerlo aggiornato, che è un altro grosso problema. Invece il vostro veicolo, se lo paracadutate in una zona dove non ci sono mappe, lui va. Esatto, è un po' più reattivo, noi diciamo reattivo, cioè vede il mondo, capisce e reagisce, però la parte difficile è che effettivamente capire tutte le situazioni è molto complesso. Molto complesso. E soprattutto reagire e prendere decisioni. Questa è una parte molto complessa che tocca anche problemi di etica dei veicoli automatici. Un giorno il veicolo automatico che deve prendere una decisione, se la decisione coinvolge la vita di qualche persona, può diventare una decisione etica. E facciamo un esempio, perché questo è un punto molto interessante, perché richiede anche un ripensamento, oltre che delle regole, anche delle della programmazione, perché il tecnico che programma il veicolo automatico, che ha intelligenza artificiale, prende decisioni in base a decisioni che un uomo ha preso, che ha detto in quel caso devi decidere così. Facciamo un esempio. Ci sono tanti esempi di questa situazione molto particolare, quando il veicolo si troverà di fronte a una situazione imprevista, per cui ci sono dei bambini che attraversano la strada, tre bambini che attraversano, il veicolo ha la possibilità di frenare senza evitare l'impatto, perché si ritrova davanti all'ultimo momento, e quindi cosa deve decidere? Investo i tre bambini che attraversano la strada, oppure mi butto dall'altra corsia dove magari sta arrivando un'altra macchina e magari c'è qualcun altro a bordo della macchina? Cioè bisogna decidere chi è meglio sacrificare, e questa è una decisione tremenda da prendere. Normalmente noi quando guidiamo non ci pensiamo nemmeno, ed è un qualche cosa che vediamo ad istinto. Quando mi trovo in una situazione strana, di istinto o freno o sterzo. Non c'è una regola, una premeditazione. Perché uno dice l'uomo ha deciso in quel modo, invece in quel caso la macchina ha deciso sulla base e di qualcuno l'ha programmata la macchina, quindi qualcuno che programma la macchina deve decidere che in quella situazione ho deciso che investirò tre persone. Oppure un'altra situazione che va molto di moda adesso, il veicolo si trova di fronte a una situazione imprevista, c'è un motociclista, è un motociclista senza casco e un motociclista col casco, e devo investire qualcuno perché non riesco a frenare, chi investo? Quello senza casco o quello col casco? Questo è molto americano, perché ci sono degli stati dove il casco non è obbligatorio. Ma perché uno potrebbe pensare in Italia magari è un po' raro questo, però è vero. Però il problema è cosa faccio? Investo quello col casco che ha più probabilità di sopravvivere? Però a questo punto penalizzo una persona che invece si sta comportando bene rispetto a uno che invece non si sta comportando bene. È un grosso problema, ce ne sono tanti di questi dilemmi, potrei menzionare tanti. Non siamo arrivati ancora a questo, perché per riuscire a capire che la persona ha il casco o meno serve ancora una percezione molto molto dettagliata, e non ci siamo ancora arrivati, ma un giorno ci arriveremo. Un giorno sono sicuro che il veicolo riuscirà a capire perfettamente tutte queste situazioni e dovrà decidere, e questa sarà la parte difficile della decisione etica del veicolo. Avremo modo sicuramente di rincontrarci davanti al microfono. Io ringrazio il professor Brogi per essere venuto nei nostri studi, cosa non facile visti gli spostamenti non solo in Italia ma nel mondo, ma noi siamo stati felici di averla con noi. Grazie mille, grazie. Prima di chiudere, alcune anticipazioni su Nova, il Sole 24 Ore, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore in edicola la domenica. Buongiorno, benvenuto, bentornato a Pierangelo Soldavini. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, partiamo come sempre dalla copertina. A cosa l'avete dedicata, a cosa avete scelto questa settimana? Dunque, forse tu Enrico non lo sai neanche tu, che i campionati del mondo di calcio si apriranno con un primo calcio d'inizio dato da un paraplegico, cioè la prima partita dei mondiali sarà data da un paraplegico che potrà farlo grazie a un esoscheletro, cioè una struttura robotica che lo sostiene e che sostanzialmente gli permetterà di muoversi, di dare il calcio. Quindi allora, la dimostrazione che la tecnologia La tecnologia è abilitante, e soprattutto gli esoscheletri, che probabilmente gli ascoltatori non sanno neanche di che cosa si tratta, però sono alcuni dei nostri ascoltatori, perché molti diciamo che non tutti sapranno, però appunto si tratta di strutture robotiche che permetteranno sempre di più il movimento. Sostanzialmente la prospettiva è di eliminare le carrozzelle, di permettere sempre di più agli utenti di muoversi, ma poi sempre di più possibilità per esempio di utilizzare carichi, di alzare carichi, di muoversi. Quindi servono sia per chi ha problemi, perché appunto o non riesce a muoversi o ha difficoltà di movimento, ma anche per le persone come abilitanti, normali, per le persone normali, per fare cose che sono oltre le loro possibilità. I film già ci giocano parecchio. Beh, una delle prospettive più vicine, diciamo così, dell'uso degli esoscheletri è nel settore militare, perché già si stanno facendo le sperimentazioni, oppure nel settore industriale, dove uno deve spostare dei carichi e potrebbe farlo in maniera molto più agevole. Assolutamente, ma per esempio anche a Fukushima l'ingresso e la denuclearizzazione è stata resa possibile proprio da degli robot applicati agli esoscheletri, insomma. Ok, bene, nella pagina centrale invece vi occupate di una cosa un po' meno sexy, che però a me piace molto, è molto importante. Sì, è molto importante perché questa settimana, il 6 giugno, entrerà in vigore ufficialmente la fatturazione elettronica. Di che cosa parliamo? Di tutti i rapporti che le società private hanno con la pubblica amministrazione, per cui è una piattaforma che permetterà alle società private e ai privati che sono creditori nei confronti dello Stato di avere dei pagamenti in maniera molto più automatica, in primo luogo digitale, per cui senza più dover fare ricorso alla carta, è molto più rapida, e dall'altra parte molto più sicura, perché ci sono delle prove che sono state mandate e quindi lo Stato dovrà rimborsare e pagare entro breve. È obbligatorio, è un percorso che si inizia e che in prospettiva l'anno prossimo avrà anche l'altra faccia della medaglia, cioè che i cittadini potranno pagare tutto quello che devono allo Stato, ahimè, in maniera digitale. Quindi insomma, senza dover fare code, andare in banca e così. Io lo faccio, pensa, da quando esiste la possibilità di pagare le tasse in maniera online, io faccio tutto online. Assolutamente, però non però tutte le cose sono fattibili così. Bene, grazie Pierangelo, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, ciao. E con questo concludiamo questa puntata di 2024 che abbiamo in ampia parte dedicato al veicolo autonomo. Mi sembra una prospettiva molto affascinante, molto interessante. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Io sono Enrico Pagliarini, potete scriverci a 2024, quindi 2024 e radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana. 2024.